O. Fonetica. Ascolta e ripeti. R. Regolamento. Dovremo. Criniera. Ora. Crudele. Rosicchiare. Sdraiato. Libro. Fronte. Fermo. Orecchia. Attraente. Sprofondare. Ritornare.